Se guardiamo le cose da grande mente, viene da sorridere a pensare quanto gli esseri umani impiegano energia per combattere con se stessi, al loro interno e tra di loro. È impressionante la mola di fatica che si fa in questa direzione qua. E quanto poco invece si faccia per uscire da questa trappola. Ecco, il compito dei movimenti evolutivi di oggi sono tanti, è quello di unirsi in un grande movimento che possa liberare il mondo dalla piccola mente, insomma, e che liberi l'essere umano. Dove poi va a finire l'uomo? È chiaro che l'uomo non è più controllabile, né dalle chiese, né dalla politica, né dalla finanza.